sposarti alla Sandrina. Tu sposarti alla Sandrina. Bello puoi levar di testa, bello puoi levar di testa, o la forca o la berlina, forse di chi ti sposerà, forse di chi ti sposerà. O la forca o la berlina, forse di chi ti sposerà, forse di chi ti sposerà. Non venir di più davanti, vera schiuma di furfanti. Non venir di più davanti, vera schiuma di furfanti. Pien di vizie di peccati. Pien di vizie di peccati. Non venirmi più davanti, vera schiuma. amor, la carità, senza amor, la carità, ne...